ancora se io ripenso a te. E anche se il passato non tornerà, alla fine quello che conterà sarà quello che c'è stato fra me e te. Ora fumo e polvere, niente più. Questa rabbia in corpo che sale su, perché nessuno mai saprà che avevo ali di carta e chissà perché. Non sapevo che fosse felicità. Camminavo in strada ed avevo già un domani in mano ed una curiosità. E ora una fredda notte ed un vuoto che altro non fa che portarti via da me. Mentre lotto per risalire su da un burrone di incertezze che spazza via quel che resta di due sentimenti o tre. Gioia, un freddo dolore e serenità. Mentre muoio di noia e golosità e di tristi abitudini e vanità. Ali di carta non avrò finché al mio fianco non ti avrò. Voglio evadere dal mondo dell'attualità, rifugiarmi in mari di illusorietà, riprovare quel brivido che non mi fa mai sentire appagato stando fermo qua. Voglio ancora provare a sorridere, non pensare e non essere normale mai. Voglio ancora rischiare e vivere, innamorarmi, soffrire, gioire di te. Ma questo mio pensare alla libertà, alla folle idea di anormalità, sai che appunto un sogno rimarrà, se son l'unico a pensarla così in realtà. Sogneremo insieme se tu vorrai, lo realizzeremo io e te. Cacceremo via lontano tutti sempre e mai, tornerò a volare leggero perché ali di carta ora avrò. Con ali di carta andremo via. Io non ho finito e nemmeno tu di mostrare al mondo quello che siamo noi. Io non ho finito e nemmeno tu di sognare diversa questa realtà, perché solo il sogno ci salverà. Ideali quelli no, non ci sono più. Vieni via con me, amore mio, ti amo.